Siamo in collegamento con Rossella Vignieri, presidente Arci Bologna. Buongiorno Rossella. Buongiorno, buongiorno a voi. Quali sono ad oggi gli impatti della situazione sanitaria e delle relative restrizioni sul mondo della cultura? Sono delle conseguenze sicuramente molto, molto gravi e molto serie, che tra l'altro potrebbero anche aggravarsi ulteriormente se dovessero esserci ulteriori provvedimenti ancora più restrittivi, partendo anche dall'esperienza dei nostri spazi, dei nostri circoli Arci. Chiaramente la pandemia ha agito innanzitutto sul tema degli spazi. Molti dei nostri luoghi, i nostri luoghi della cultura, a causa anche delle norme sanitarie, delle norme di sicurezza, non riescono più a riaprire perché non potrebbero garantire le capienze, e quindi questo significa che molti dei nostri spazi non sono riusciti ancora a riaprire. Quindi chiaramente immagino che in tutta la città ci sia appunto una perdita in questo momento di luoghi della cultura. Questo ha avuto chiaramente anche delle conseguenze dal punto di vista economico e quindi anche della sostenibilità, e questo significa che gli attori culturali che sono presenti nella nostra città chiaramente hanno meno risorse per investire in produzione culturale, e questo chiaramente è un grosso problema per tutte le città, per la nostra città che nella cultura ha uno dei suoi fondamenti. Sappiamo quanti sono i lavoratori della cultura nella nostra città, sono molti, quanti sono anche le cittadine che usufruiscono delle proposte culturali di questa città, per cui credo che ci sia in questo momento un grave problema, una grave crisi. Ci sono e sono stati fatti dei tavoli di discussione con le istituzioni riguardo proprio questi argomenti. Hanno portato a qualcosa di concreto? Allora, sì, sono stati fatti durante il periodo di lockdown. Io invece credo che comunque andrebbero anche riproposti, perché in questa seconda ricaduta dell'epidemia i problemi naturalmente si sono anche ulteriormente aggravati. Sì, da quei tavoli qualcosa si era ottenuto, come per esempio la sospensione dei canoni di affitto per le associazioni, per le APS che stanno in spazi comunali. Non si è ottenuto molto, e questo secondo me è un tema su cui bisognerebbe lavorare, per tutte le associazioni che invece vivono e stanno all'interno di spazi privati, quindi in affitto. Per loro purtroppo anche dai vari decreti emanati dal governo non sono state previste delle misure di sostegno per l'affitto, e sono state previste invece soltanto per le attività commerciali. Io credo che invece da questo punto di vista bisognerebbe dare un grosso sostegno a queste realtà che in questo momento magari stanno cercando di sopravvivere, a fatica riescono a pagare l'affitto, ma magari non riusciranno a farlo per molto tempo ancora, e quindi probabilmente il prossimo anno, anche con la chiusura, con la fine dell'epidemia, non riusciranno più a riaprire. E io credo che questo sia un grido allarme che dovrebbe essere tenuto in considerazione sia dalle istituzioni cittadine, ma anche nella dimensione più nazionale. Ecco, quindi sì, in quel tavolo questo si era ottenuto. Credo che adesso bisognerebbe, appunto, come dicevo prima, riprendere un confronto con l'amministrazione pubblica e capire come in questa ulteriore fase di emergenza, che era già stata provata dal lockdown, cosa si può fare insieme per far resistere il mondo della cultura cittadino. Quali sono le vostre proposte, appunto, per aiutare queste realtà, come ad esempio, non so, ammortizzatori sociali per lo spettacolo? Ma sì, chiaramente se la situazione dovesse essere peggiorare ulteriormente, un supporto per i lavoratori dei nostri circoli noi lo chiediamo, nel senso che comunque fino ad adesso per la prima volta il governo ha dato la possibilità della cassa integrazione anche per alcuni dei lavoratori anche del mondo del terzo settore. Questa potrebbe essere una misura sicuramente da prorogare, quindi questa è una prima misura. Ma poi credo che in questa fase di emergenza siano necessarie delle misure di compensazione, quindi comunque delle misure economiche che vadano a sostegno degli spazi culturali culturali, favorire per esempio anche interlocuzione o una mediazione che potrebbe essere agita anche dall'istituzione pubblica con le fondazioni bancarie e con gli enti che possono in questa fase favorire dei finanziamenti per le realtà che fanno produzione culturale. Quindi sicuramente le prime misure che noi chiediamo sono misure di natura economica. Noi chiaramente dalla nostra vogliamo anche fare noi la nostra parte, per cui chiaramente quello che stiamo cercando di fare è di innanzitutto rispettare tutte le misure di sicurezza nei nostri circoli, devo dire che queste vengono rispettate, per poter proseguire la nostra attività culturale, perché noi siamo convinti del fatto che i nostri spazi continuano ad essere degli spazi sicuri dove si può venire ad ascoltare un concerto o a svolgere un corso o un'attività, cosa che noi facciamo storicamente. Per cui quello che noi vogliamo è che si continuino a frequentare i nostri spazi, chiaramente rispettando tutte le norme di sicurezza. E in più quello che noi stiamo provando a fare è mettere a disposizione anche dei circoli che in questo momento non possono utilizzare i propri spazi, altri spazi più ampi e che permettano di continuare a svolgere le proprie attività anche se non nella propria sede. Quindi chiaramente anche noi stiamo cercando, come dire, di mettere in campo delle misure per cercare di sostenere in questa fase i circoli, anche se non è assolutamente semplice.